questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pierluigi, ti licenzio. Saremo in casa, abbiamo la voglia di vincere e faremo tutto per questa, ottenere questo risultato. Siamo primi, dipende solo di noi di essere primi lunedì sera. Allora saremo primi lunedì sera. Beh, non mi sembra un gran mago Garcia, Forse servono quelli veri. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Anche noi saremo a Forum Agenti venerdì, quindi preparate uova, pomodori per Pardo. Ciao Pier. Bella Forum Agenti, cerchi agenti rappresentanti la roba lì, no? Pierluigi, ti licenzio. Eccala. Senti, 800-24-0024, Garcia ha sbagliato pronostico. Serve, non è ben chiaro dove siano finiti quei famosi cinque maghi, dove sono? Caro Lotito, ora hai capito perché la Roma è lassù. Sono cinque maghi che fanno il voodoo e te la vende con. C'è un pentolone con la pozione, bevine un goccio anche tu. Ma tra in campo c'è Mandi Radu e in Serie B ce vai tu. Ora Aurelio lo sa che la macumba c'è sta. Tu l'hai avvertito, il segreto è svelato, cosa puoi fare di più? Caro Lotito, ora hai capito perché la Roma è lassù. Io una teoria ce l'ho, sono andati in vacanza con i soldi di Pallotta. Sì, più dei maghi, secondo me c'è un problema di attaccanti in questo momento della Roma. Cioè, tu dici che serve il mago numero 10? Il mago numero 10 sicuramente pesa con la sua assenza, ma soprattutto la Roma nelle ultime tre partite ha buttato via tantissime occasioni. Ieri sera è stata forse la volta più clamorosa, ma anche col Sassuolo era successo, insomma. Sì. E quindi alla fine poi il calcio è uno sport di episodi, dove se non riesci a essere concreto, alla fine le partite non le vinci. E poi devo dire anche che, insomma, l'abbiamo sottolineato all'inizio della stagione, comunque questa squadra fa un calcio molto dispendioso, molto intenso, e quindi qualche conto lo si comincia a pagare. Comunque la brillantezza che c'era un mese e mezzo fa, sì, la Roma l'ha persa. Sai che secondo me è proprio questo il punto, cioè al di là dei maghi, del mago numero 10, degli scherzi. Certo, l'assenza di Totti pesa, però la sensazione è che la Roma si stia un po' spegnendo fisicamente. Primi 60 minuti anche ieri a grandissimo ritmo, poi quando c'era da crossare per Boriello, che secondo me è importante adesso in questa squadra. Abbiamo visto gli Aic a steccare, quando c'era da sprintare, da fare forte gli ultimi 10 chilometri, la Roma si è un po' spenta. Ho la sensazione che, ma del tutto fisiologicamente, questa Roma sia un po' in flessione fisica. Sì, flessione fisica sicuramente, poi detto questo la poteva vincere, così come poteva vincere il suo volo e così come probabilmente meritava di vincere anche col Torino. Quindi diciamo che, insomma, io non vedo una crisi clamorosa, però è chiaro che 3 punti in 3 partite, di cui 2 in casa contro 3 squadre non di prima fascia, sono un dato oggettivo. Poi l'avevamo detto, insomma, quando la Roma era più 5 della Juve, il calendario sembrava ulteriormente favorevole, invece è successo l'esatto contrario, oltre qualsiasi pronostico, quindi 6 punti persi in 3 partite. Mi sembra che il campionato stia trovando delle gerarchie un po' più logiche. Sì. Tutto questo, la Roma sta facendo una grandissima stagione, c'è anche già chi comincia a guardare al punto guadagnato sul Napoli. Questo è giusto, è corretto, corretto. Ci fa giustizia, io lo dico dall'inizio della stagione, da quando si è cominciato a vedere che la Roma andava così bene, che l'obiettivo della Roma deve essere il terzo posto, possibilmente il secondo. Quella è la vera sfida. Però hai visto la Juventus, che quando fioccavano le critiche, quando si diceva non ha più rabbia e cattiveria eccetera eccetera eccetera, intanto vinceva e comunque restava lì. Adesso ha trovato un po' di quelle componenti, molta brillantezza, i gol di Llorente, e guarda un po' dov'è. Saluto e ringrazio Luca Valdiserri dal Corriere della Sera. Eccomi qua. Eccolo là. Allora, mancano di più i 5 maghi, che mi sembra siano in vacanza, o manca di più il mago numero 10, o manca forse in questo momento un po' di benzina alla Roma? Ma il 10 sicuro. Il 10 sicuro. La benzina forse un po', però sono andato a vedere un po' di dati, tanto per non parlare solo di aria fritta. La Roma ha fatto 48 tiri verso la porta in queste tre partite, no? Sì. 16 nello specchio. Sì. Il problema è che manca la qualità. La quantità c'è ancora. Le occasioni ci sono. Prima andavano dentro, adesso... Ma parliamo di qualità, di fortuna, di stelle contrarie, di Totti? Più la qualità, soprattutto la qualità, perché poi la fortuna, la sfortuna non è quantificabile, mentre se tu vedi che la Roma abbia battuto 34 calci d'angolo, no? Sì. Tra Torino, Sassuolo e Cagliari, da quei calci d'angolo non è nato niente, 34 sono tanti, se tu hai Totti magari, no? Se tu hai Totti magari giochi anche in una maniera un po' diversa, perché riesce Totti come sempre, è trasformatore che riesce comunque a sistemare, a cambiare la squadra come sempre, come ha fatto per tutta la carriera. Abbiamo costruito tanto, abbiamo fatto tanti tiri in porta, tante parate del portiere, un palo, insomma, è anche un pizzico di sfortuna. All'inizio magari le cose andavano sempre bene, le deviazioni andavano dentro, adesso così è, la fortuna è passata a qualcun altro, ma d'altra parte il campionato è così, è lungo, lo dicevamo da sempre. Rimane un ruolino di marcia secondo me spaventoso, siamo a un punto da una squadra di fenomeni e continueremo a lottare secondo me con loro, e intanto insomma abbiamo anche allontanato il Napoli, che non è una cosa da poco. Questo era De Rossi, lo dicevo io che mancano i maghi, il numero 10, ma anche quelli che aiutavano la Roma prima, come diceva Lotito, perché anche De Rossi parla di fortuna che un po' è girata. Pierluigi Pardo e Luca Valdiserri, aiutatemi invece a leggere i riflessi delle discussioni societarie tra moglie e marito, non mettere a dito specie cinese, cosa può aver portato in termini di... così, mancanza di tranquillità dell'ambiente o di confusione, questa notizia di Chen Feng. Pier. Ma guarda, Luca segue tutti i giorni Trigoria e quindi ne sa più di me. Io credo che in generale i giocatori della Roma devono interpretare questa notizia e questo interesse con addirittura con entusiasmo, nel senso che Conto è Pallotta che magari vorrebbe avere i soci di minoranza frammentati per avere più controllo del club, è assolutamente legittimo, insomma non c'è niente di blasfemo nel pensare questo, credo sia abbastanza normale e fisiologico, e dall'altro però sono le prospettive di questa società, e allora qua insomma il punto è come quando hai delle spasimanti, no? Cioè, non è che ti preoccupi perché hai delle spasimanti, sei dal punto di vista societario, sei dal punto di vista societario soci importanti che vogliono entrare, è una buona notizia. Il problema è quando non hai nessuno che ti si vuole prendere, che ti vuole comprare. Quindi dal punto di vista, diciamo, di quello che interessa ai calciatori, che è lo stipendio tutti i mesi e la prospettiva di essere una squadra importante di un certo tipo, di un certo livello, io credo che non ci sia veramente nulla di cui preoccuparsi. Poi magari un po' di turbolenza dal punto di vista societario, dirigenziale ci può essere, e magari questa in qualche modo si sarà anche riflessa e trasferita ai giocatori, però questo non lo so, forse Luca su questo è... Sì. Però quando hai le spasimanti che ti si vogliono infilare in casa, magari tu non hai voglia, preferisci avere dei flirt, insomma proseguo sulla tua però qui metafora, può la differenza è che ci può essere anche poligami, nel senso che alla fine ci possono essere anche più persone che portano capitali, come il caso dell'Inter recentemente dimostra. Io penso che Moratti in cuor suo idealmente avrebbe voluto un socio pronto a prendere il 49%. Ma no, ma questo è il sogno di chiunque, Pierluigi. È il sogno di chiunque, cioè quello di arrivare di uno che arriva con un camion di denaro, te lo dà e dice: "Tò, pilota tu, io sto a guardare da lontano, mi metto in tribuna e faccio il tifo." Questo è il sogno di chiunque faccia sport, Luca. Sì, io penso che alla squadra non ha portato via niente. Però nel quello che c'è intorno, tra i tifosi, sicuramente è passato un messaggio che adesso arriva il cinese, porta un sacco di soldi, compriamo Ronaldo e Messi, e la cosa sicuramente a Pallotta non ha fatto piacere, anche perché coi soldi degli altri sono tutti bravi, poi quando si arriva a doverli mettere tutti si fanno dei calcoli, si mettono dei problemi. Non lo so, non credo che appunto alla squadra abbia creato problemi. Io non penso che esista nessuno al mondo che mette il 30% per poi stare lì a guardare. Assolutamente. Questo momento 800240024, io sto leggendo anche i vostri messaggi, 349-238-6666, c'è chi insiste su gli Aici, reduce da una serie di prestazioni non buone. Questo momento particolare, mancando Totti con questa flessione dei risultati, può essere anche un modo per rivedere al ribasso quelli che sono arrivati alla Roma? No, mi riferisco agli Aic, ma anche ad altri giocatori. Deve fare, deve fare un altro ragionamento. Cioè, se il campionato è ancora vivo, lo si deve solo alla Roma. Perché se non ci fosse stata questa Roma eccezionale delle prime 13 giornate, la Juve avrebbe già vinto lo scudetto. Sì. I romanisti devono pensare questo. Sì. Perché se no, se invece si mettono a pensare manca Totti, tre pareggi, eccetera, eccetera, sbagliano proprio la prospettiva. Questo campionato qua è della Juve. C'è una squadra che sta tenendo il ritmo della Juve, la Roma. Figurati se il problema è la Roma. Il problema è di tutte le altre. No, certo. È dell'Inter, è del Milan, è del Napoli, della Lazio. Cioè, la Roma problemi non ne ha. No, ma secondo me manca un punto della Juve. Poi se uno si vuole creare problemi al suo interno lo faccia, però è sbagliato. Stavi dicendo, Pier? No, che appunto a proposito di quello che si diceva, no, dei nuovi acquisti, la Roma ha fatto una campagna acquisti furba, ma certamente ha fatto una campagna acquisti per recuperare i risorse. Insomma, la stagione di Rijkaard, che chiaramente ieri non ci è piaciuto, è evidente, la devi vedere con la stagione che sta facendo meglio a Tottenham, nel senso che, sì, che il tipo di scambio con una grande plusvalenza a favore della Roma è stato fatto in quei termini. La solidità difensiva e Benatialo devi giudicare su quello che ha fatto, insomma, certo, di Torino, certo, a parte. Certo, questo è evidente. Insomma, quindi no, quello dice Luca è assolutamente sacrosanto, insomma, è chiaro però che il dato giornalistico c'è, perché una squadra che vince le prime 10 partite con quell'autorità e che poi fa 3 punti in 3 gare con due partite in casa contro Sassuolo e Cagliari è una notizia, insomma. Sicuramente. È normale che oggi a Roma ci sia delusione, perché il calcio è materia liquida, ogni settimana cambiano gli scenari. 800 24 00 24, la voce dei tifosi, e poi andiamo sul Milan, perché insomma adesso stiamo parlando, questi sembrano dettagli, sembra lana caprina questa discussione sulla Roma secondo in classifica un punto alla Juve, quando c'è il Milan che questa sera rischia la buccia, la panchina di Allegri, forse l'immediato futuro societario, forse la testa di Balotelli linciato da chiunque, Boban in primis, rischia un sacco, e noi siamo qui a parlare della Roma che comunque sta facendo una stagione meravigliosa. Vittorio Isernia, buongiorno. Buongiorno signor Genta. Diga. Signor Pardo. Senti, io volevo dirvi una cosa sul Napoli. Napoli-Parma sembra passato in cavalleria questa partita, ma questa è una partita che forse c'è qualcosa di sotto. Di sotto? E che c'è di sotto? Io, di sotto nel senso di criminalità organizzata, perché il Parma non è la prima volta che vince a Napoli. No, io non sembra di no, però io non vorrei leggere così un risultato come questo. Io invito tutti i tifosi napoletani a sollevarsi. Sì, a sollevarsi addirittura, no, che non si sollevino, che stiano seduti. No, ma no, faccia bravo, no, che stiano seduti, e a criminalità organizzata, cioè, se ci mettiamo a fare illazioni pesanti di questo tipo, faccio rispondere Luca Valdiserri. No, non lo so, allora vale tutto. Borussia Dortmund che perde 3-0 in casa col Bayern, non sa chi ci è andato. La mafia russa. L'aspetto. O Mazzarri che vince solo una delle ultime 8 partite con Pioli, come senso vogliamo interpretarlo. Che voglio dire, veramente, sinceramente, grande impegnate affetto per l'ascoltatore, ma mi sembra una follia totale. Proprio totale. Ecco. Quindi che stiano seduti. In Europa hanno questo problema. Ma non sì, lo vedi, non sono poche quelle che vincono in Europa in campionato, o fanno campionati più facili. A me sembra che il Parma abbia fatto una stupenda partita, abbia interpretato stupendamente questa partita. Sotto ci può essere un Napoli clamorosamente svuotato l'altra sera, perché la partita di oggi fa eccezione, cioè prima o poi arriveremo anche a Dortmund, ma sì, la partita di stasera è veramente la finale. Il paradosso del Napoli è che basta un punto oggi e potrebbero non bastare, invece se perde tre punti con l'Arsenal, l'ultimo. Quindi, certo. E questo secondo me qualche energia l'ha tolta, poi però insomma in campo sì, poi ci arriviamo, l'ha tolta anche al Dortmund, che ha preso 3 fichi nella partita partita scudetto in Germania, vabbè, che fa ridere parlare a novembre, però 0-3 con il Bayern Monaco. Beppe, provincia di Bergamo, buongiorno. Volevo cambiare argomento, io mi dispiace, ma vorrei parlare ancora di Milan. Sì, lo faremo. Io mi inserisco nella querela di Barbara Berlusconi e Galliani. Ho sentito quasi tutti i tifosi milanisti in questi giorni essere dalla parte dei Graziani. Io sono totalmente dalla parte di della Barbara Berlusconi. A parte che, secondo me, perché? Questa ragazza è l'emanazione del padre, cioè parla per quel che dice il padre. Mm. Però ha ragione da vendere, a mio parere. Lei ha detto un po' di tempo fa che Galliani era bravissimo a fare mercato con due nozzi. Sì. Sono d'accordo con lei. No. Però il termine di paragone è che le due noci ce le hanno anche gli altri, perché alla Juventus più di due noci non hanno neanche loro. Guarda, Galliani va a bussare alla porta della Epsilon, gli dicono arrangiati. Galliani è stato bravissimo negli ultimi anni a fare mercato senza soldi in tasca e solo con delle cambiali. Io non sono così d'accordo con lei. Chiedo a Luca Valdiserri, secondo me è stato quantomeno intempestivo questo momento della rivoluzione. Luca. Ragazzi, i giovani spingono, giustamente, fa parte della loro natura. Arriva un momento in cui non sono più bambini, diventano adulti e chiedono il loro spazio. Dentro il Milan questo spazio è occupato da Galliani. Non ho dubbi che Berlusconi abbia nei confronti di Galliani non solo molta stima, ma anche una grandissima riconoscenza. Sì, ma perché adesso? Perché adesso Barbara Berlusconi si sente pronta per fare delle cose che 3 anni fa o 4 anni fa non si sentiva pronta per fare. Sì. Ma aspettare fino a fine stagione no. Ma poi diventa il momento, i momenti sono quelli che decidono se la squadra va bene, stanno tutti zitti, è quello che dicono tutti gli allenatori quando no. Quando vinco nessuno si lamenta se sta fuori. Pareggio 3 partite e adesso probabilmente c'è qualcuno che dice: però se giocavo io le vincevamo. Sì. Ecco, è così, Milan sta andando male e c'è un momento di vuoto di potere. Berlusconi per tanti motivi ha avuto altre cose più importanti. Sì, ha avuto qualcosina da fare. Barbara va lì e dice, tra l'altro io adesso è una, probabilmente solo un dettaglio, però io so che al Milan è stato preso molto male dalla parte giovane del Milan l'accordo della Roma con la Disney, per esempio. Cioè, al Milan si sono chiesti: ma com'è possibile che la Disney va a fare un accordo con la Roma e non con noi, che siamo il colosso, sì, che siamo dell'entertainment, no? Certo, siamo... Poi dopo, certo, la Roma ha una proprietà americana, la Disney è americana e il motivo c'è, sì. Però questo è un dato di fatto, sono tutti, al Milan, certo. Si chiedono, sono tutti i tasselli di un mosaico che hanno portato a una rivoluzione di novembre, secondo me anticipata e secondo me disastrosa. Grazie Luca, a presto. This is the end, beautiful friend. No, come this is the end? No, ma io questi qua li licenzio, Scaltritti e Piantanida li licenzio, ma la canzone non è questa. Galliani ha detto un'altra cosa, ha detto: la mia canzone è Let It Be, non è The End. Mi piace di più perché erano i miei tempi. Questo ha detto Galliani. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Così va meglio, eh? Io sono costretto, e la parola la dico tra virgolette, a restare ancora in campo nonostante la veneranda età e nonostante che io abbia delle alternative che mi piacciono molto. Dimenticavo tra queste alternative anche l'hobby che mi perseguita da molti anni, che si chiama Milan Associazione Calcio, che avrebbe, a mio giudizio, non soltanto a mio giudizio, un estremo bisogno del mio interessamento. E secondo me il presidente ha ragione, Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, in questo momento servirebbe il quantomeno il suo carisma. Sicuramente il carisma può essere utile, più ancora del carisma servirebbero investimenti di un certo tipo, insomma, però sicuramente, insomma, già una presenza un pochino Pier più... Io intendo proprio in questo momento in cui tutto mi sembra davvero allo sfascio, cioè c'è Allegri totalmente esautorato, c'è Galliani che sceglie Let It Be e fa il suo testamento, i dirigenti passano, le squadre restano, potrebbe andare via domani, potrebbe succedere il disastro stasera. Sicuramente serve ordine, serve mentalità, serve una figura che ci faccia sentire, che possa essere da esempio nei confronti della squadra. Però dico anche che secondo me, al di là di tutto e della confusione che c'è in questo momento, ci sono dei limiti tecnici che possono essere colmati essenzialmente col mercato. Qui c'è poco da tirarci attorno, insomma. Sicuramente Berlusconi potrebbe avere un effetto positivo, potrebbe costarsi un pochino di più Milanello, la squadra, ma insomma non potrebbe trasformare alcuni giocatori in fenomeni. Volevo dire una cosa prima su Barbara Berlusconi, sì, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, che secondo me però forse si è anche un po' esagerato nella critica nei confronti, cioè ci lamentiamo sempre del fatto che l'Italia, che l'Italia è un paese dove c'è ricambio generazionale, che non è un paese per giovani. Insomma, io credo che si debba sospendere il giudizio su Barbara Berlusconi. Non la conosciamo, non lo sappiamo, sappiamo che certamente avrà vissuto di emozioni, di una cultura di impresa di un certo tipo, aziendale, importante, non sappiamo poi se avrà le qualità individuali per poter emergere così tanto, però questo atteggiamento secondo me di dire che per forza fallirà, ecco, no, ma non è questo da parte di alcuni sbagliati, no, Pierluigi, però non è questo il punto, su Lady B, assonanza con Let It Be, voluta naturalmente, non è questo il punto. Il punto è la tempestività, cioè già era una stagione difficile, già si partiva con Allegri sempre sul filo del rasoio, si è chiesto al Milan di entrare in Champions, cosa ha fatto? È partito malissimo in campionato come l'anno scorso, e poi in un momento di grande difficoltà arriva questa granata da Barbara Berlusconi e tutto si scioglie in maniera molto più rapida. Siamo a novembre, il Milan potrebbe non passare il turno di Champions e sarebbe un mezzo disastro. Sicuramente dal punto di vista del presente la reazione che ha avuto la squadra, mio discorso, è stata negativa, però secondo me bisogna guardare un pochino oltre e ti dico pure che se alla fine, ammesso e non concesso, e lo dico mille volte, se alla fine veramente ci fossero dei nodi che dovevano essere sciolti perché probabilmente bloccavano le strategie del Milan, per passare due mesi complicati di tempesta, ma cercare di risolvere i problemi piuttosto che rimanere in un limbo che in qualche modo sarebbe stato complicato. Ripeto, ammesso e non concesso che poi i problemi del Milan fossero legati a questo calpestarsi i piedi di queste due figure, evidentemente in questo momento molto ingombranti. Io non so se è così, certamente Galliani lo conosciamo, ha una storia di un certo tipo ed è una storia assolutamente vincente, così come vincente la storia Silvio Berlusconi, se la valutiamo, se la valutiamo nei 25 anni. Barbara Berlusconi non la conosciamo, però ripeto, no, ma io guarda che non discuto discuto solo i tempi, non discuto quello che potrà essere il futuro, sono anche d'accordo con te nel dire forse era il momento di cambiare. Sicuramente c'è stata un'accelerazione di un contratto che era nell'aria, che è diventato esplicito, e sicuramente la squadra non ha reagito da quel momento in poi in positivo, cioè non è stata una sposta positiva. Però qui parliamo di cose molto più grandi di una stagione o di cinque partite. Parliamo di cose più grandi, ma con 15 anni, ma sicuro. Però siamo in questo momento di fronte a qualcosa di imbarazzante, di una squadra che si è totalmente sciolta e che non ha più alcun tipo di guida. Saluto e ringrazio Giovanni Galli. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera. Allora, intuito l'argomento di cui stavamo parlando, insomma, dibattevamo della tempestività di questi interventi. A me sembra che in un momento già molto difficile la rivoluzione di ottobre abbia portato il Milan davvero sull'orlo del nulla. Sull'orlo del nulla. Il nulla potrebbe essere stasera a Glasgow. Intanto io credo che si debba fare, io non so se fossero le parole del dottor Galliani fossero rivolte alla sua situazione o se fossero in un'ottica normale nazionale, nel senso quando lui parla e dice che grandi giocatori, allenatori e dirigenti insomma hanno lasciato sicuramente una traccia, però le società sono rimaste e loro sono andati via. Ora non so se questa frase no fosse rivolta a se stesso in un momento come questo, oppure se fosse, ecco, un discorso più ampliato a quello che è l'effettivo, no, veridicità, l'effettiva veridicità delle sue parole. Beh, detto questo, certamente il Milan non sta vivendo un momento, però sai, ci sono anche delle attenuanti, ci sono delle colpe, ci sono però anche delle attenuanti, e mi spiego meglio, è che è un problema a mio avviso di carattere nazionale. Noi fino a 5 anni fa eravamo i padroni in Europa, no, del mercato, cioè tutti i procuratori portavano i grandi giocatori nelle nostre squadre. Adesso questo non avviene più, anzi siamo noi che siamo costretti a cedere i giocatori in campionati dove hanno più possibilità economiche delle nostre. L'intervento di Barbara Berlusconi, ho fatto questo per questa premessa per spiegare un po' come l'ho letta io, nel senso che Barbara Berlusconi ha fatto un intervento dettando una linea guida per la società, penso anche a nome del babbo, voglio dire, no, del dottor Berlusconi, dicendo: bene, è finita un'epoca, adesso se ne deve aprire un'altra. Se ne deve aprire un'altra perché dobbiamo andare a prendere quei giocatori che oggi ancora hanno un costo accessibile e che hanno delle grandi possibilità di poter diventare dei grandi giocatori. Ecco, penso che questo lo si possa fare anche con il dottor Guagliani ancora alla guida del Milan. Cioè, è un dissesto perché logicamente i risultati non arrivano, ci sono grandi contestazioni e tutto il resto, e allora qualsiasi notizia oggi è logico che va vista, no, sì, in un'ottica come questa. Però dico ancora di più: se questo dovesse essere rivolto effettivamente a se stesso, questa riflessione che lui ha fatto, io credo che possa essere anche letta in una chiave di quello che deve essere un futuro. Cioè, l'obbligo del Milan di dover per forza stare, no, nelle competizioni europee perché economicamente è molto vantaggioso, è anche vero che ti obbliga però comunque, no, a dover fare degli investimenti importanti per rimanere a quei livelli, cosa che oggi mi sembra di capire che il Milan non vuol fare. Allora, se dovesse il Milan non centrare non la qualificazione di stasera, ma una qualificazione grazie al campionato, alla prossima Champions League, secondo me non sarebbe un danno così terribile. No, ma anche secondo me è già successo, è già capitato. Anche a squadre importanti. Ma lo stesso Milan, ricordiamo il ritorno di Sacchi, il ritorno di Capello, quelle annate di tra Tabarez e Terim, quelle annate un po' così, insomma, sono cose già successe, no? Possono servire proprio per ricostruire, per ripartire e avere la possibilità, no, nell'anno, ora io parlo già nell'anno prossimo, no? Non dovesse arrivare la qualificazione, te hai la possibilità di poter ricostruire una squadra avendo soltanto un obiettivo, che è quello del campionato. Ed abbiamo visto, e lo stiamo vedendo tutt'oggi, Inter e Roma, no, che sono fuori dalle coppe, quanti vantaggi hanno da questa sicuramente iniziano a ricostruire, hai capito? Anche il Milan ha avuto dei vantaggi quando appunto non si è qualificato per le coppe negli anni storti, è riuscito a ricostruire e a tornare a vincere. Allora, Pardo, Giovanni Galli dice: in un'ottica di ricostruzione Milan fuori da tutto l'anno prossimo potrebbe anche paradossalmente non essere un gran danno. Poi insomma, diciamo che bisogna prima di tutto fare un discorso chiaro ai tifosi, e poi bisogna anche rendersi conto che la Champions ti porta 25-30 milioni di euro, ma comunque diciamo mi sembra che il tema ormai non ci sia più, nel senso che veramente ci vorrebbe un miracolo per centrare una delle prime tre posizioni per il Milan. Non mi sembra onestamente che ci siano le condizioni né tecniche né statistiche perché questo possa succedere. In generale il discorso di Giovanni è quello che dicevo in qualche modo anche prima, cioè comunque Barbara Berlusconi a un certo punto ha dato delle indicazioni che tra l'altro non sono state mai contraddette da Berlusconi, perché poi dobbiamo anche leggere quello che è successo nelle ore immediatamente successive, nei giorni immediatamente successivi, al di là del legame fortissimo, profondo tra Galliani e Berlusconi, al di là di quell'immagine cinematografica quasi di Berlusconi sulla porta della villa di Arcore nel salutare l'amico di sempre che andava via, mi sembra che quello che abbiamo capito è che si va verso una separazione. Quindi evidentemente le posizioni che erano state espresse da Barbara Berlusconi in quelle ore non erano posizioni così lontane da quelle del padre, alcune istanze anche da parte del padre. Del resto posso capire che Galliani possa rivendicare i suoi successi, la sua storia e fa benissimo perché Cacano è soltanto l'ultimo di quelli che ha preso, come detto, a rate, spalmando, facendo cambiali, eccetera eccetera. Un'ultima cosa, Giovanni Galli, tu sei d'accordo, Giovanni, con quanto detto da Boban, durissimo su Balotelli? In vita sua non ha fatto nulla, sarà sempre più piccolo del Milan, il suo atteggiamento svogliato dimostra che proprio con il cervello non arriva a capire alcune cose. Impari da Kakà, nel mio Milan, che era anche il tuo, avrebbe portato il Borsuona, Van Basten, Weah, Shevchenko, eccetera, eccetera, eccetera. Segno di Zorro. Zorro, non ha peli sulla lingua. No. Non ha peli sulla lingua, assolutamente. Beh, in certe situazioni effettivamente il filo del discorso di Boban non fa una piega. Credo che però Balotelli abbia delle attenuanti, ma abbia tante responsabilità. Le responsabilità sono quelle, come diceva Boban, di vestire una maglia importante, e che questa maglia ha assolutamente un valore assoluto. Giocatori, così come il discorso di Galliani è stato emblematico, no? Giocatori, tecnici e dirigenti passano, il Milan rimane. Ecco, lui deve capire che fa parte di un club che è storico, sulla maglia c'è scritto che è il club più titolato al mondo, e lui deve essere orgoglioso, ma oltretutto deve essere consapevole che deve dimostrare di poterci stare in quel club, perché i suoi atteggiamenti effettivamente delle volte sono irritanti, degli suoi atteggiamenti non sono consoni, ma non soltanto nei confronti del club, ma soprattutto nei confronti del compagno, perché arrivare in ritardo è una fesseria. Perché può succedere. Allora, io comprendo di più un compagno di squadra che arriva un'ora di ritardo che non quello che arriva 10 minuti. Sì, sì, certo. Perché significa mancanza di rispetto, e questo non è giusto. Questo è giustissimo. Non è giusto. Perché l'ora di ritardo, Giovanni, soprattutto il momento, perché con Milan che vince 5 partite consecutive e Balotelli che fa 7 gol, ma nessuno va lì a guardare se arriva con 5 minuti di ritardo, non è neanche un problema, non ci sono neanche i giornalisti fuori da Milanello. È che questo avvenga in un momento nel quale ci sono tutti i fari e in qualche caso anche i fucili puntati sul Milan, è la cosa che mi lascia riflettere. Devo dire che quello che dice Boban sulle responsabilità di Balotelli nasconde poi in fondo anche una piccola attenuante, perché quando Boban dice che ai suoi tempi ci sarebbero stati 5-6 senatori del Milan capaci di riportare l'ordine, la disciplina, di far capire come funzionano le cose, ecco, una delle differenze è questa. Ora non è che possiamo scusare Balotelli e dire che è colpa dell'ambiente, del fatto che non ci sono i leader capaci di prendersi cura di lui, perché dovrebbe non avere bisogno di questi leader. Però questo è un dato, secondo me, oggettivo, cioè il Milan nel passato ha messo a posto tante persone, tanti giocatori, perché subito si trovava la strada, e Giovanni ce lo potrà confermare, e il tipo di comportamento che dovevi avere. Oggi probabilmente la speranza che aveva Galliani, che avevano i dirigenti del Milan, di poter cambiare rapidamente il carattere di Balotelli grazie all'ambiente, trova tante difficoltà, perché quei leader non ci sono. Giovanni, sì, è così. Aggiungo, non è che invece sia diventato, in questi giorni c'è al cinema un film molto bello tratto da un capolavoro, Monsieur Malossen, il capro espiatorio della situazione, non è che stia diventando questo Balotelli? No, non credo, ma vorrei che fosse l'esatto contrario, nel senso che lui in questo momento sta sfidando tutto e tutti. Nel senso che, siccome gli è già successo quando era all'Inter, è già successo quando era a Manchester, nel momento in cui a lui non piace più stare in un posto, cambia il suo modo di essere, cambia il suo modo di fare. Io ho visto domenica, probabilmente è sfuggita a tante, o io sono stato fortunato nel leggere in un momento quello che è stata l'immagine di Balotelli in un primo piano dopo aver sbagliato il calcio di rigore, che si è rivolto alla curva con uno sguardo forte, uno sguardo, cioè, come per dire, cosa volete? Sfida. Di sfida. Non vorrei che questo fosse, e appunto il fatto di essere arrivato in ritardo e di tante cose, l'altra mattina non si è fermato a firmare, tutti si sono fermati a firmare gli autografi a quei pochi che erano davanti a Milanello, lui non l'ha fatto, cioè che non sia proprio un modo per arrivare allo strappo definitivo, sì, da poter dire signori io me ne vado, insomma io non ci posso stare, In questa squadra non ci posso stare, bisogna capire qual è la sua squadra. Certo, sinceramente. È lui che ce lo deve dimostrare. Ha dimostrato di essere e di avere i colpi del grande campione, ma non ha dimostrato né la continuità e neanche il carattere, neanche voglio dire la leadership per poterlo fare. Sì, non ha dimostrato tutto il resto, i colpi non bastano. Giovanni, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie a voi, grazie, ciao. Noi siamo qua per giocare questa partita fondamentale, non decisiva, fondamentale, è perché abbiamo fatto 9 punti. Sì, questa partita non va bene, ancora abbiamo l'Arsenal e vediamo che cosa fa l'Arsenal con l'Olympique de Marsiglia. Tutti dicono no, ma questa partita è decisiva. No, è fondamentale, lo sappiamo e ci siamo qua a questo punto è perché l'abbiamo fatto bene. Lo che dobbiamo fare un'altra volta è farlo allo stesso livello che l'abbiamo fatto prima e io sono molto positivo. No, paura perché? Molto contento perché è un stadio importante, con tifosi caldi, con una squadra di massimo livello. Sempre è meglio essere qua che non guardando la partita per televisione. Questo Benitez naturalmente. Allora Pardo, tra poco ti lascio andare, che devi schiarire l'ugola perché farà freddo o caldissimo, non lo so, a Dortmund, caldissimo dal punto di vista agonistico, credo così sarà la temperatura. Poi abbiamo sentito Benitez che gioca sui dettagli linguistici, decisivo, fondamentale. Sì, ma insomma io penso che assolutamente sia una partita decisiva. Allora, una partita che è decisiva se va bene, sì. Se va bene, se il Napoli pareggia o vince, passa il turno con 90 minuti d'anticipo e sarebbe un trionfo, ma mai come stavolta la distanza fra esito e fracasso, come direbbero gli spagnoli, cioè fra trionfo e fallimento, è molto molto sottile. Non ci sono grandi dubbi da questo punto di vista, insomma, perché poi arrivare all'ultima partita contro l'Arsenal dovendo vincere con uno scarto molto importante, sì. Io credo che sarebbe molto pesante, molto difficile. Quindi è veramente una situazione strana, e questo, torniamo un po' al discorso che facevamo prima sul Napoli-Parma, questo in qualche modo secondo me può anche autorizzare l'idea che qualche energia mentale sia stata assorbita in quella partita. Sì, sì, sì, può essere legittimo. Perché veramente, cioè non è una situazione normale, questa qui non è una partita normale, è già una finale. Certamente. Per come la stagione del Napoli può avere un'incidenza psicologica, pazzesca, tecnica, pazzesca. Secondo me è pazzesca, anche sul campionato, ma certo. Comunque o va bene o ti restano solo delle speranze molto lontane, diciamo così, porti a casa delle speranze molto lontane, rimani in vita ma con attaccata ai macchinari, anche se è un'immagine orrenda. Meteo per finire, che tempo c'è? Ma per la prevista -3.3, ci sono dei raggi di sole vaghi in mezzo a tante nuvole, direi che non fa freddissimo in questo momento, però considerato che sono le 3 del pomeriggio, ecco, tipico tempo tedesco, stadio molto caldo, lo sappiamo bene, stadio anche che ci ricorda ovviamente quell'Italia Germania ovviamente il 4 luglio del 2006, che è entrata nella storia. Chi segnò secondo gol? Facile Del Piero, molto bene Del Piero, tipo grosso. No, perché adesso devo far sentire una cosa mentre ti saluto. Ciao Pierluigi, a domani. Ciao. Pierluigi, ti licenzio. No, Mughini, fa bravo. Ho licenziato perché... Allora, siamo in fascia protetta? Sì. Vabbè, fa niente, dai. Vi faccio sentire una cosa. L'autore del secondo gol di Dortmund, che ora ha citato Pardo, che ha cantato con Ramazzotti al concerto di Sydney. Era meglio di no, caro Alex. Libero da sé, tu quanto amore dai, e cambia niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà, davanti agli occhi miei, bravo, hey! Io zappavo la terra. Alex, era meglio di no. Era meglio di no. Era meglio di no. Anche però dobbiamo farvela sentire, perdonateci, copriteci pure di improperi voi puristi della musica, ma dovevamo farvi sentire Del Piero che canta. Vabbè. Massimo Milano. Sì, buongiorno, posso parlare di basket? Sì, può anche cantare se vuole. No, meglio di no per voi. Beh, se, canta, se Del Piero canta così può cantare benissimo anche lei. Anche Walter sì, da Bergamo, potete fare il coro, dica. Grazie. No, volevo dire questo, un suo parere, sì. Le dico questo, un Reyer Venezia, 5 partite e 4 sconfitte, cambio allenatore, 2 vittorie su 2 partite, sì. E con Milano e Bologna. Per la serie l'allenatore non conta niente nel basket, cosa ne dice? Lei? No, dico di no, l'allenatore conta molto nel basket, conta più che nel calcio, evidentemente la strada di Mazzone a Venezia era finita. Quando, torno a ripetere, ma può valere parallelo per il Milan, quando un allenatore è di fatto esautorato dalla società, i giocatori si comportano di conseguenza, cioè spesso si danno alla macchia, comunque sanno che la fiducia è a termine, ma al di là del fatto che bravissimo Mazzone l'ha dimostrato molte volte, la sua strada era alla fine, grande allenatore creativo Zare Markowski, però è chiaro che questi risultati sono eccessivi rispetto al pregresso. A proposito di basket, ho visto giocare a Milano un'altra sera in Eurolega e ho avuto la conferma che questo è un gioco piuttosto semplice, quando giocano quelli bravi alla fine la strada per vincere si trova. Milano ha un paio di playmaker presunti tali che insieme non ne fanno mezzo, ma non dico di playmaker, di giocatore decente alla fine, ma è successo anche con Reggio Emilia. Facciamo giocare a Langford playmaker, lui a pallacanestro sa giocare, poiché non sia un playmaker poco importa. Walter Bergamo, buongiorno. Buongiorno, ma sto lavorando, quindi sta lavorando. Quindi comunque, non, vi rubo non 30 secondi, non di più, voglio dire, siccome adesso mi sembrava che il signor Ginta non nominasse più questo personaggio che ha non so mai il numero 45. Ora invece bisogna nominarlo quando no, l'ho nominato, diverse volte. Siamo alle solite, voglio dire, i soldi sono persi anche per altre squadre che non vanno in Champions. Siamo alle solite, io faccio un esempio, Sassuolo ha dei bellissimi, giovanissimi, bravissimi giocatori. Voglio dire, vogliamo decidere una volta per tutte, voi, non parliamo di chi fa i numeri, tipo il signor Gagliani e il suo patron, di calcio e di giocatori, se vogliamo che vadano bene le cose in Italia, almeno dal punto di vista del calcio. Quindi? Quindi, ma lei mi ha già chiesto un po' di tempo fa, faccia dei nomi, dico cosa, ma no, ma siete voi, parlatene voi di altri giocatori. Vogliamo finire di parlare del Milan perché è così, del Balotelli perché è così. Io ascolto la sua trasmissione perché voglio sentire parlare di calcio, basta parlare di questi personaggi qua. Ma no, sono personaggi e sono calciatori, così come sono per ora calciatori di buone speranze quelli che lei ha citato, però siamo sempre lì, quando fanno il salto importante poi li si valuta, adesso li applaudiamo e li guardiamo tutti con simpatia, io non dimentico la valutazione ad esempio di Mattia Destro che è tornato e speriamo faccia benissimo, non dimentico cosa sembrava ad esempio Insigne che sta crescendo molto, ma cosa sembrava un nuovo fenomeno dopo la stagione di Pescara. Abbiamo diversi giovani, poi il problema è quando arrivano al punto chiave, cioè quello dell'esplosione. Sono campioni o sono buoni giocatori? Questo, ad esempio, Giuseppe Rossi, dopo mille traversie e un sacco di pane duro mangiato all'estero, adesso possiamo dire che è sulla via per diventare un campione. Se vuole però possiamo parlare dei settori giovanili del Chievo, non mi sembra un argomento di grandissimo interesse, però se volete ne parliamo, anzi fate così, parlatene voi, fatemi le domande. Massimo da Rimini, di cosa parliamo? Settore giovanile dell'Ascoli. No. Vabbè, innanzitutto complimenti, del Pisa. Siete forse una delle poche trasmissioni che parla di calcio in maniera seria. E, non è, ma, intanto Massimiliano da Rimini, sì. Volevo dire questo, io ieri ero a Roma a vedere la partita e ho visto la grandissima squadra, sinceramente, che ha tirato 19 volte. Niente, ha dominato e allora la che partita. Cosa c'è che non va? No, è solo questione di fortuna, come dice De Rossi? No, guardi, allora il problema è questo qui, il calcio è fatto di episodi, certamente. Avete detto benissimo voi, e devo dire che il Cagliari è una buona squadra, buona poi mancava anche Nainggolan, e ha giocato alla morte. E mi auguro che tutte le squadre giochino così anche contro altre, non so. Beh, mi ricordo un Genoa che va a giocarsi, ha qualche motivo per dubitarne, guardi, io le posso fare una domanda? Genoa-Napoli? Dica. No, io parlo di Juventus-Genoa, dove sul 2-0 il Maradona del Genoa, con le dovute proporzioni, che è Gilardino, viene tolto dopo neanche un, forse il primo tempo, sul 2-0. E io ho visto un Sassuolo giocare a Roma alla morte, dove Di Francesco ha messo 4 punte per poter, come è giusto, perché è così, sì. Il bello del calcio è questo. Ma io a Genoa, a Torino l'ho visto, onestamente l'ho visto preso a pallonate per 20 minuti. Poi non credo ci fosse del dolo in un approccio di quel tipo, guardi, della partita da parte della Juventus, eh. No, ma perché no? A me non dico questo, cioè, se vogliamo parlare di episodi, devo dire che ho visto una Juventus prendere a pallonate il Torino qualche settimana fa, però la partita finisce 0-0 in maniera normale, come ieri sera, perché c'era un Abramov che ha fatto i miracoli. Questione di episodi, no, ma questo è evidente. È chiaro anche che se prende a pallonate l'avversario è più facile passare e vincere, no? Quindi anche questo è evidente. A me sembra che alla Roma non giri benissimo in questo momento, altrimenti probabilmente 2 mesi fa il palo di Gervinho sarebbe stato gol per questione di millimetri e magari finiva 3-0, ma ha ragione lei, è una questione di episodi. Non andrei invece a fare non andrei a caccia di streghe, come mi è sembrato in sottofondo di capire, semmai di maghi, perché quei 5 maghi della Roma non funzionano più. Allora, invece di licenziare Pardo, licenziamo i maghi della Roma e prendiamone degli altri, può essere un'idea. Il pronostico della Champions non lo fai, mi tocca, vabbè. Allora, il pronostico della Champions dice: il Napoli pareggia a Dortmund, facciamo 1-1, e invece il Milan perde 2-1 a Glasgow. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, vi aspetto domani con l'elmetto alle 2. Oggi Carlo ha pronunciato il nome di Mario Balotelli troppe volte.